Terzo anello. Ad alta voce. Elsa Agalbato legge Emma di Jane Austen. Traduzione di Bruno Maffi. Carissima Emma, disse Mr. Knightley, giacché carissima mi sarà sempre, qualunque sia il risultato della conversazione di quest'ora. Mia carissima, mia adorata Emma, risponda subito. Dica no, se no deve essere. Emma non poteva in verità dir nulla. Muta, esclamò lui con grande animazione, muta come una tomba, e non dirò più nulla. Emma per poco non soccombette all'agitazione del momento. Il timore di svegliarsi dal più felice dei sogni era forse il suo sentimento più vivo. «Non so far discorsi, Emma», riprese egli quasi subito e in un tono di così sincera, decisa, chiara tenerezza da riuscire abbastanza convincente. «Se le volessi meno bene, potrei forse parlarne di più, ma lei sa come sono fatto. Da me non sente che la verità. L'ho biasimata, le ho tenuto sermoni, e lei l'ha tollerato come nessun'altra donna in Inghilterra avrebbe saputo. Abbia per le cose che ora le dico, carissima Emma, la stessa tolleranza che ha avuto per quelle. Può darsi che lo stile non abbia molto di più da raccomandarlo. Dio sa che innamorato scialbo sono stato. Ma mi capisca. Sì, lei capisce che cosa sento e lo ricambierà se può. Per ora le chiedo solo di poter sentire ancora una volta la sua voce. Mentre parlava, la mente di Emma era riuscita, pur senza perdere una parola, ad afferrare e capire l'esatta verità dell'insieme, a capire che le speranze di Harriet non avevano base, errore e abbaglio completi quanto quelli di lei stessa, che Harriet non era nulla e lei era ogni cosa. Che quanto lei aveva detto riferendosi ad Harriet era stato scambiato per il linguaggio dei suoi sentimenti e che la sua agitazione, i suoi dubbi, la sua riluttanza, il suo scoramento erano stati riferiti a lei. E non solo ci fu tempo per convincersi di questo con tutto il suo alone di felicità, ci fu anche tempo per rallegrarsi di non essersi lasciata sfuggire il segreto di Harriet e decidere che non aveva nessun bisogno, che non doveva anzi rivelarlo. Era tutto il servizio che poteva renderle ora, giacché quanto all'eroismo di sentimento che avrebbe potuto indurla a pregarlo di trasferire il suo affetto da lei ad Harriet, come a quella delle due di gran lunga la più degna, o anche alla più comune sublimità di decidere di rifiutarlo subito, per sempre, senza dirne il motivo, poiché tutte e due non poteva sposarle, Emma non li possedeva. Provava dolore e contrizione per Harriet, ma non le passò per la testa nessun volo di generosità impazzita e capace di opporsi a quanto poteva essere probabile o ragionevole. Aveva sviato l'amica e se lo sarebbe rimproverato in eterno, ma la sua ragione era forte come i suoi sentimenti, forte quanto era stata in passato nel condannare quell'unione ineguale e per lui degradante. Aveva via libera ora, anche se non era una via facile. Poi, così pregata, parlò. Che cosa disse? Esattamente quello che doveva, come sempre fa una signorina. Disse abbastanza per lasciar capire che non doveva disperare e per invitarlo a dir di più. In un certo periodo, egli aveva in realtà disperato. Aveva ricevuto un tale ordine di cautela e di silenzio da uccidere per allora ogni speranza. Emma aveva cominciato col rifiutarsi di ascoltarlo. Il mutamento era stato forse un po' brusco e alludeva alla sua proposta di fare ancora quattro passi, all'aver ripreso la conversazione al punto dove l'aveva interrotta, tutte cose forse un po' strane. Emma ne avvertì l'incoerenza, ma Mr. Knightley fu così buono da non insistervi e da non chiedere altre spiegazioni. È raro, molto raro, che una verità piena appartenga alle confessioni umane. Raro è che piccoli travestimenti o malintesi non ci siano. Ma quando, come in questo caso, sebbene sia travisata la condotta, non si travisano i sentimenti, la cosa può non avere molto peso. Mr. Knightley non poteva attribuire ad Emma un cuore più mite di quello che aveva o più disposto ad accettare il suo. In realtà, della propria influenza non aveva avuto il minimo sospetto e l'aveva seguita nell'arboreto senza alcuna idea di metterla alla prova. Era venuto nell'ansia di controllare come reagisse al fidanzamento di Frank Churchill, senza fini egoistici, senza nessun fine addirittura, oltre al tentativo, se gli avesse aperto uno spiraglio, di consolarla o consigliarla. Tutto il resto era stato opera del momento, effetto immediato sulla sua sensibilità di quanto aveva udito. La confortante assicurazione dell'assoluta indifferenza di Emma per Frank Churchill, la certezza che il suo cuore non era impegnato con lui, avevano dato origine alla speranza che col tempo avrebbe potuto conquistarla egli stesso. Ma non si trattava di una speranza attuale. Il massimo cui aveva aspirato, nella momentanea vittoria dell'ardore sulla ragione, era di sentirsi dire che non gli vietava di cercare di conquistarla. Tanto più incantevoli dovevano essere le speranze più luminose che a poco si schiudevano. L'affetto che aveva chiesto il permesso di suscitare, se per avventura ci riusciva, era già suo. Nel giro di mezz'ora era passato da uno stato d'animo completamente desolato a qualcosa di così simile alla felicità che nessun altro nome gli si addiceva. Non diverso fu il cambiamento operatosi in Emma. Quella mezz'ora aveva conferito a ognuno di loro la stessa preziosa certezza d'essere amato. Aveva disperso in ognuno lo stesso grado di ignoranza, di gelosia o di diffidenza. Da parte di lui c'era sempre stata una gelosia vecchia quanto l'arrivo o addirittura l'attesa di Frank Churchill. Era stato innamorato di Emma e geloso di Frank Churchill su per giù nello stesso periodo, essendo probabile che uno dei due sentimenti l'avesse illuminato sull'altro. Era stata la gelosia di Frank Churchill ad allontanarlo. Era stata la gita a Box Hill a consigliargli di partire. Voleva risparmiarsi lo spettacolo di tante attenzioni, non soltanto permesse, ma incoraggiate. Era partito per imparare ad essere indifferente, ma era partito per il posto sbagliato. C'era troppa felicità domestica in casa del fratello. Le donne vi apparivano in una luce troppo gradevole. Isabella era troppo simile ad Emma perché ne potesse ottenere molto, anche con un soggiorno più lungo. Era rimasto, tuttavia, tenacemente un giorno dopo l'altro, finché quella mattina stessa la posta aveva recato la notizia di Jane Fairfax. Ed ecco che alla gioia che era giusto sentire e che non aveva avuto scrupolo di sentire, giacché non aveva mai creduto che Frank Churchill meritasse minimamente Emma, si era accompagnata una così tenera sollecitudine, un'ansia così viva per lei, che non era più potuto rimanere. Era tornato a cavallo sotto la pioggia e subito dopo pranzo era corso a vedere come la più dolce, la più bella di tutte le creature, incolpevole nonostante tutte le sue colpe, sopportasse la notizia. L'aveva trovata inquieta e depressa. Frank Churchill era un farabutto. La udì proclamare che non gli aveva mai voluto bene e che, d'altra parte, il carattere di Frank Churchill non era poi così perverso. Quando rientrarono, era la sua Emma, sue la mano e la parola di Emma, e se in quel momento avesse potuto pensare a Frank Churchill, forse l'avrebbe giudicato un gran bravo ragazzo. Che sentimenti radicalmente diversi da quelli coi quali era uscita, Emma riportò in casa. Allora non aveva osato sperare che in un attimo di sollievo dalla pena. Adesso era in un palpito squisito di felicità, una felicità inoltre che sarebbe stata certo anche maggiore quando il palpito fosse cessato. Si sedettero per il tè, le stesse persone intorno alla stessa tavola. Quante volte vi si erano raccolte e quante volte i suoi occhi si erano posati sulle stesse pianticelle nel giardino e avevano osservato lo stesso dolce effetto del sole al tramonto. Mai però in quello stato d'animo, mai in nulla che gli somigliasse. E solo a fatica Emma poté chiamare a raccolta una parte sufficiente del suo io per essere l'attenta signora di casa o anche l'attenta e vigile figlia. Il povero signor Woodhouse non sospettava certo che cosa si tramasse contro di lui nel cuore dell'uomo di cui aveva tanto cordialmente salutato l'arrivo, augurandosi con viva sollecitudine che non si fosse preso freddo venendo a cavallo. Avesse potuto leggergli nel cuore, si sarebbe curato ben poco dei suoi polmoni, ma senza il più lontano sospetto del malanno incombente, senza la minima percezione di qualcosa di insolito negli occhi o nei modi dell'uno o dell'altra, ripeté con tutta calma la serie di notizie che aveva ricevute da Mr. Perry e continuò a parlare soddisfatto di sé, ben lontano dal supporre quale notizia stavano per dargli in cambio. Finché Mr. Knightley rimase con loro, la febbre di Emma perdurò. Ma quando fu uscito, ritrovò un po' di calma e nel corso della notte insonne, che era il naturale pedaggio di una tale sera, trovò uno o due punti molto seri da meditare e intuì che anche la sua felicità non sarebbe stata senza ombre. Suo padre e Harriet. Non poteva essere sola senza sentire tutto il peso dei loro diversi diritti. E il problema era come tutelare al massimo la tranquillità di entrambi. Quanto al padre, il problema era presto risolto. Non sapeva ancora che cosa avrebbe chiesto Mr. Knightley, ma un breve scambio di idee col proprio cuore si concluse nella più solenne decisione di non lasciare mai il padre. E pianse perfino a quell'idea come a un peccato di pensiero. Finché lui era in vita, non doveva essere che un fidanzamento. Ma si lusingava che, svanito il pericolo di vedersela portar via, potesse divenire per lui motivo di maggior conforto. Come fare del suo meglio con Harriet era un problema assai più difficile da risolvere. Come risparmiarle un inutile dolore? Come ripagarla nei limiti del possibile? Come apparir meno sua nemica? Su tutti questi punti gravi erano la sua perplessità e il suo imbarazzo, e la mente le doveva passare più e più volte attraverso la serie di più amari rimproveri e penosi rimpianti che mai l'avesse circondata. Infine, poté solo decidere di evitare al momento ogni incontro, di comunicarle per lettera quanto andava comunicato e, cosa quanto mai desiderabile, di fare in modo che si allontanasse per il momento da Highbury. Mr. Knightley non l'aveva lasciata da molto, non abbastanza perché Emma sentisse la più lontana inclinazione a pensare ad altri, che le fu portata da Randalls una lettera molto fitta. Che cosa dovesse contenere lo indovinò e rimpianse la necessità di leggerla. Si era perfettamente rapacificata con Frank Churchill. Non aveva bisogno di chiarimenti, aveva solo bisogno di tenere per sé tutti i suoi pensieri. Quanto a comprendere qualunque cosa egli scrivesse, era sicura d'esserne incapace. Comunque bisognava farlo. Aprì la busta. Che cosa fosse, inutile dirlo. Una lettera di Mrs. Weston. «Ho il grandissimo piacere, Emma, di inviarti la clusa. So che l'apprezzerai in tutto e per tutto e non ho nessun dubbio circa i suoi benefici effetti. Credo che non saremo mai più in serio disaccordo circa lo scrivente, ma non voglio trattenerti con una lunga prefazione. Noi stiamo benissimo. Questa lettera è stata la medicina di quel po' di nervosismo che negli ultimi tempi mi aveva presa. Non mi è affatto piaciuto il tuo aspetto martedì, ma si trattava di una mattina disgraziata e sebbene tu non voglia mai riconoscere di subire l'influsso del tempo, credo che un vento di nord-est chiunque lo senta. Sono stata molto in pena per tuo padre durante la tempesta di martedì pomeriggio e di ieri mattina, ma ieri sera ho avuto il conforto di sentire da Mr. Perry che non ne ha sofferto. Sempre tua. Alla signora Weston da Frank Churchill. Cara signora, se ieri sono riuscito a farmi capire, questa lettera sarà attesa. Ma attesa o no, so che sarà letta con candore ed indulgenza. Dovete sforzarvi tutti di capire l'esatta natura della mia situazione la prima volta che arrivai a Rundles. Dovete considerare che portavo in me un segreto da mantenere ad ogni costo. Tale era il fatto, che avessi diritto di mettermi in una situazione che imponeva un sotterfugio di questa specie è tutt'altra questione, né voglio discuterla qui. Corteggiare Miss Fairfax apertamente non osavo. Le difficoltà implicite nella mia situazione di allora a Enscombe devono esservi troppo note perché mi sia necessario descriverle. E fui abbastanza fortunato, prima che ci separassimo a Weymouth, di convincere la più leale anima di donna che esiste sulla terra a umiliarsi per bontà a un fidanzamento segreto. Se avesse rifiutato sarei impazzito. Ma dirà lei, che cosa sperava così facendo? Che cosa attendeva? Qualunque cosa, ogni cosa, tempo, caso, circostanze, effetti lenti, scoppi improvvisi, perseveranza e stanchezza, salute e malattia. Ogni possibilità di bene mi si schiudeva innanzi, primo fra tutti quello di ottenere la sua promessa di fede e comprensione. La mia condotta durante le due settimane veramente felici trascorse con lei non mi hanno, spero, esposto a critiche, eccetto in un punto. E vengo alla parte principale. La sola importante della mia condotta mentre ero da voi, quella che mi tiene in ansia e chiede sollecita spiegazione. È col massimo rispetto e la più calda amicizia che nomino Miss Woodhouse. Il mio contegno nei confronti di Miss Woodhouse ha, credo, lasciato supporre più di quanto dovesse. Per favorire un occultamento per me così vitale, sono stato spinto a servirmi più del dovuto della specie di intimità nella quale ci trovammo immediatamente coinvolti. Non posso negare che Miss Woodhouse fu il mio oggetto visibile, ma sono certo che lei mi crederà quando dichiaro che se non fossi stato convinto della sua indifferenza, nessuno scopo egoistico mi avrebbe indotto a perseverare. Amabile e deliziosa com'è Miss Woodhouse, non mi ha mai dato l'idea di una giovane donna facile ad innamorarsi e che fosse assolutamente priva di qualunque tendenza ad innamorarsi di me era tanto la mia convinzione quanto il mio desiderio. Accoglieva le mie attenzioni con una gaiezza disinvolta, amichevole, festosa, che faceva proprio al caso mio. Sembravamo comprenderci a vicenda. Avete ora la chiave di qualunque stranezza abbia detto o fatto durante quelle due settimane. Il mio cuore era ad Highbury e il problema era di recarvi il mio corpo quanto più spesso e con quanto meno sospetto fosse possibile. Se ricordate qualche bizzarria, attribuitela alla giusta causa. Del pianoforte di cui tanto si parlò, credo solo necessario dire che la sua ordinazione era assolutamente sconosciuta a Miss Fairfax, la quale, se mai avesse potuto, non mi avrebbe mai consentito di inviarglielo. La delicatezza della sua anima in tutto il corso del fidanzamento è tale, cara signora, che supera ogni mio potere di renderle giustizia. Devo aggiungere qualcosa a questa lettera. Lei non ha sentito tutto ciò che dovrebbe sentire. Particolari coerenti ieri non potevo darne, ma la subitaneità e sotto un certo punto di vista intempestività con cui la faccenda è scoppiata chiede spiegazione. Poiché, sebbene l'avvenimento del 26 ultimo scorso, come voi concluderete, mi abbia schiuso le più felici prospettive, non mi sarei mai permesso di compiere passi così precipitosi se le circostanze del tutto eccezionali non mi avessero lasciato un'ora da perdere. Personalmente sarei rifuggito da passi così precipitosi e Miss Fairfax avrebbe sentito con ancor più forza e delicatezza ogni mio scrupolo, ma non avevo via di scelta. E adesso, cara signora, la lascio. Prima non potevo concludere. Mille e mille grazie per tutta la bontà che mi ha sempre mostrata e 10.000 per le attenzioni che il suo cuore le detteranno nei riguardi di lei. Se crede che sarò più felice di quanto meriti, sono interamente del suo parere. Miss Woodhouse mi chiama il beniamino della sorte. Spero che abbia ragione. In un punto la mia fortuna non ammette dubbi, quello di potermi firmare il suo obbligato e affezionatissimo figlio